Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? Oggi un mondo dentro i balloon, Fumetti a Sinistra, ha incontrato uno dei massimi, se non la massima esponente degli studi sulla immagine riprodotta ed illustrazione, in particolare per ragazzi. Parliamo della Paola Palottino, un personaggio davvero poliedrico, nonché storica dell'arte, ma anche conosciuta da tanti come paroliera di canzoni di grande successo, come 4 marzo 1943 di Lucio Dalla o ancora di Angelo Branduardi, La ragazza e l'eremita. In quanto studiosa poi dell'illustrazione, vogliamo solo ricordare due lavori: il primo prodotto per la casa editrice Nuova Cappelli nel 1978, la collana 100 anni di illustratori, 9 volumi, con tanto di apparato iconografico, dedicati alle grandi matite del secolo, ovvero sia Sergio Tofano, Mario Pompei, Antonio Rubini e Golia. 10 anni dopo, questa volta invece per la Zanichelli, nell'88 va segnalata Storia dell'illustrazione italiana, un volume che per la prima volta offre uno sguardo insieme sull'immagine riprodotta che ha compiuto in Italia un percorso che va dalla xilografia all'invenzione della litografia fino alle più moderne tecniche di stampa. Ricordiamola anche come direttrice nonché promotrice del Museo dell'Illustrazione, 100 studi sull'immaginazione riprodotta con sede a Ferrara, un museo poi chiuso per mancanza di fondi, tant'è che ancora oggi abbiamo il materiale incredibile, importante di questo museo, che di proprietà della stessa Palottino è chiuso in tanti scatoloni, 179 grossi scatoloni che racchiudono appunto questo preziosissimo materiale in attesa di trovare luogo di esposizione. La nostra Morena Moretti ha raggiunto la Paola Palottino per andare a mettere il focus su un argomento che ancora non abbiamo toccato, in particolare la presenza importante ma misconosciuta delle donne nella redazione del Pioniere, il giornalino di Gianni Rodari. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, m'aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò anni la nonna, e stringendomi al petto che sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. Sentiamo allora l'intervista di Morena Moretti a Paola Palottino. Paola, quante furono e che ruolo ebbero le illustratrici nel Pioniere? Intanto premetto che mi piace molto questa domanda perché sto concludendo un libro sulle illustratrici italiane dal 600 ai giorni nostri E così, sempre nell'ottica della presenza femminile nell'editoria della prima metà del Novecento, sono arrivata a una serie di conclusioni, esaminando la sostanziale misoginia della pubblicistica cattolica e fascista, che però è una situazione che è destinata a radicalizzarsi anche nella stampa antifascista, soprattutto in quella socialista e comunista che qui ci interessa nel caso del Pioniere. Allora, diciamo che la così dichiarata parità e attenzione alla donna, almeno per quanto riguarda le illustratrici, è più di facciata, perché in realtà se noi andiamo a guardare, non una sola illustratrice nei 4 anni di vita di Primavera, che era la rivista creata da Vittorio Podrecca, fatta dalla casa editrice dell'Asino, all'interno della quale in 4 anni ci sono tutto il gota degli illustratori italiani, ma nessuna donna. Il Germoglio, che era la palestra pure così socialista di Ugortone e Melandri, niente donne. Il settimanale Cuore, che voleva concorrere al Corriere dei Piccoli, ci lavora perfino Calantara, nessuna donna. E nemmeno una sola donna in una delle più significative imprese editoriali del dopoguerra, ossia la prima collezione di libri tascabili che poi viene rilevata da Feltrinelli, e che è la Universale economica del canguro, da cui poi nascerà la Burr. Ecco, però Paola, diciamo, ma le illustratrici c'erano? In queste testate che ti ho citato, nessuna, mentre invece presenze femminili, seppure in sottordine, si registreranno sulle pagine del Pioniere. Tra l'altro il Pioniere, come sappiamo, prende il nome dall'organizzazione giovanile sovietica ed è un settimanale dell'API che nasce nel 1950. Non a caso è diretto dalla giornalista Dina Rinaldi, che poi affiancherà Rodari nel 51-52, poi ne riprenderà le redini fino al 62. Poi dopo il Pioniere diventa un inserto dell'Unità. Comunque a me sembra che il Pioniere più interessante e proprio più rappresentativo è quello dal 50 al 56. Allora, se noi lo esaminiamo numero per numero, come ci ha concesso questa benemerita messa online da parte di Zaia, il livello qualitativo dei fumetti e delle illustrazioni non arriverà mai a competere con il Corriere dei Piccoli o con il diretto avversario cattolico, il Vittorioso. Questo in generale, dici, no? In generale, però avrà i suoi punti di forza nelle collaborazioni di Raul Verdini, Berti, Vincio Berti, Mario Sturani, vedrà addirittura l'esordio di Pier Carpi e perfino di Pino Zacche, e anche del fumettista Claudio Onesti, e vanterà una mezza dozzina di donne, i cui contributi indubbiamente porteranno una ventata di grazia, di fantasia, in antitesi ai caratteri e alle vicende tipicamente maschili dei fumetti. Allora, se non è impossibile ricostruire il cognome di tante firme femminili, Rosella, che non sono riconducibili ai relativi cognomi, esaminiamo l'opera di 4 artiste. Quattro artiste che realmente si impongono, e poi questa presenza sul Pioniere così sarà una prima tappa di un cammino glorioso. La prima è Flora Capponi, sposata giovanissima, poi con altri due cognomi, Rasera e Berna, che non ho ben identificato, nasce nel 1920 a Roma, sarà la colonna del settimanale dove firma le prime vignette e le strisce, come quella di un personaggino che si chiamava Coriandolo, con la sigla FC, Flor o Flora. Allora, lei è una scenografa, illustratrice, militante antifascista e udite udite, sorella della partigiana Carla Capponi, per cui colonna del Pioniere sin dal primo giorno. Nel 51-52 vi illustra con vedute, monumenti, personaggi in costume la rubrica Alla scoperta dell'Italia. Poi seguirà una serie di riduzioni da Gulliver, Robinson, Munchausen. Queste sempre illustrate dalla Capponi, dici? Sempre illustrate dal Flora Capponi, ma il suo impegno maggiore sarà quello della pagina settimanale intitolata Le favole di Flora, dove lei reinterpreta le favole di Esopo con brevi linee di testo e soprattutto una serie di vignette molto gustose, molto leggiadre. E in seguito questa pagina sarà firmata da Esopino su testi di Gianni Rodari, e dove lei, al segno di una molto felice vocazione animalista, illustrerà con vignette

questo era La ragazza dell'eremita, incisa da Angelo Branduardi, ma le parole sono della Paola Pallottino, che abbiamo sentito in questa prima parte dell'intervista curata da Morena Moretti. La prossima puntata, la seconda parte, la Paola Pallottino ci presenterà ancora altre due importanti illustratrici che hanno militato nel pioniere di Gianni Rodari. Cambiamo argomenti, veniamo a una mostra che a Bologna fino al 21 gennaio sarà visitabile a Palazzo Pallavicini, Nel segno di Manara, antologica di Milo Manara, questa mostra dedicata a uno dei più importanti disegnatori italiani di fumetti. Sentiamo allora l'intervista di William Piana a Claudio Curcio, curatore della mostra. Probabilmente, insomma, il disegnatore italiano più conosciuto al mondo, una sorta di ambasciatore del fumetto italiano, perché abbiamo verificato che, insomma, i suoi fumetti sono tradotti praticamente in tutte le lingue in tantissimi paesi al mondo. Questa mostra è un'antologica che cerca di dare una piccola finestra su quasi 50 anni di carriera, perché lui ha iniziato nel 69 con Genius, una serie a fumetti poliziesca in bianco e nero, insomma nel periodo delle serie di questo tipo, e quindi insomma sono quasi 50 anni di carriera, con una produzione di migliaia e migliaia di tavole e illustrazioni, per cui è ovvio che una mostra antologica che non può dare conto di tutto, abbiamo cercato di fare una selezione che parte, ci sono delle tavole degli anni 70 di un fascio di bombe, e poi pian piano si arriva fino alla produzione recente, sia di fumetti che di illustrazioni, chiaramente, perché Manara, oltre ad essere un fumettaro, come ama definirsi lui, è anche un grandissimo illustratore, un illustratore che lavora non solo per l'editoria, ma anche per la pubblicità, per il teatro, per il cinema, insomma, per cui una produzione smisurata che questa mostra a Palazzo Pallavicini cerca di presentare, riassumendo, condensando e presentando uno spaccato con, speriamo, insomma, le cose più belle o anche interessanti, insomma. Anni 70, anni 80 a Bologna, una grande capitale per quanto riguarda il fumetto, l'illustrazione, la grafica. Che rapporto tra Bologna e Manara? Manara, come tra l'altro testimoniato nel manifesto, ha avuto un rapporto stretto con una serie di autori e personaggi, insomma, bolognesi. Come dicevi tu, insomma, Bologna è un po' la capitale del fumetto, capitale culturale, con tantissimi autori, a cominciare da un bolognese d'adozione come Andrea Pazienza, Bonvi, Magnus, tutti autori con i quali Milo ha lavorato e che ha voluto mettere nel manifesto, insieme ad un grande come Umberto Eco, che non è un autore di fumetti, ma che ha scritto tanto di fumetto, anzi forse in tempi non sospetti ha anche difeso il medium, no, come una forma d'arte che necessitava di maggior rispetto in un periodo in cui forse non si dava troppo attenzione alla forma d'espressione fumetto. Quante opere in esposizione? Ci sono circa un po' più di 150 opere, come ti dicevo, tra fumetti, illustrazione, schizzi, disegni, molti inediti e anche qualche chicca dei grandi autori con cui lui ha lavorato. Ci sono per esempio degli storyboard di Fellini per il lavoro che hanno fatto insieme sulla storia di Mastorna, ci sono gli storyboard fatti da Fellini e le pagine di Manara del fumetto, ci sono c'è una lettera manoscritta di Ugo Pratt, c'è anche qui uno storyboard con l'indicazione di colore che Pratt aveva fatto per una pagina di Manara, per una pagina del Gaucho, la storia che stavano facendo insieme, e poi ci sono dei recentissimi schizzi per una statua dedicata a Brigitte Bardot che è inaugurata a Saint-Tropez e che il comune di Saint-Tropez ha chiesto a Milo di realizzare, insomma, in onore a Brigitte Bardot. E quindi ci sono gli schizzi della statua, c'è la bozza, il bozzetto in gesso della statua, quindi insomma ci sono anche una serie di cose interessanti e mai viste. In effetti la figura femminile, tornando all'aspetto della statua, ha un che di classicità, se vogliamo, no? Con queste forme procaci, ovviamente non mancano queste realtà importanti che secondo me hanno delle attinenze con delle forme classiche. Beh, Milo insomma ha avuto una formazione appunto classica, dice, artistico, Accademia di Belle Arti, ed è un amante, un profondo conoscitore della storia dell'arte, quindi diciamo tutte le sue basi partono da lì, la sua passione per la storia dell'arte, la storia insomma si traspare da quello che ha realizzato sia come fumetto, come illustrazione, soprattutto insomma è evidente nel tributo che sta dedicando a un pittore per lui importantissimo come il Caravaggio, di cui ha realizzato, insomma, di cui ha scritto una storia in due volumi, il primo è già uscito, il secondo è in lavorazione, uscirà per Panini a inizio anno prossimo, e di questo volume 2 tra l'altro presentiamo le prime 12 pagine in anteprima assoluta proprio nella mostra, c'è una sala dedicata a Caravaggio con alcune pagine del volume 1 e le prime 12 del volume 2 che lui sta disegnando proprio in questi giorni. È sorpreso anche lui dalla eterogeneità del pubblico che lo segue, perché appunto non si tratta solo di vecchi lettori, ma anche di tanti giovani, giovanissimi, tante ragazze. Alla fine Manara probabilmente ha un tratto che da un lato è abbastanza classico, insomma, legato molto a un fumetto di linea chiara, pensiamo alle storie insomma del profumo dell'invisibile, gulliveriana, e dall'altro però ha saputo forse anche non rimanere chiuso in uno stile unico, che quindi si è un po' rinnovato. E effettivamente resta un autore al quale guardano anche altri autori di fumetto, insomma ci sono tantissime attestazioni di stima da autori di tutto il mondo. Io penso che insomma Milo sia un grandissimo disegnatore, tra l'altro umile, si ha la fortuna di incontrarlo, sempre disponibile, e questa cosa poi traspare nelle interviste, nelle sue dichiarazioni e traspare anche dal suo lavoro probabilmente. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte beijou. Lá dentro do cinema todo mundo se afobou. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte beijou. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va mai?